America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York. Mario Platero. I'm grateful to President Obama for inviting me to pay a farewell visit at the White House and for giving me the opportunity of an exchange of ideas before I conclude my presidential mandate. Avete sentito il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano con il presidente Barack Obama? Vi ho detto che avrei dedicato alcune trasmissioni proprio a questa visita e anche all'impatto che questa visita avrebbe potuto avere sulle elezioni italiane. Beh, in qualche modo lo ha già avuto, perché abbiamo avuto dichiarazioni da Washington che sono state interpretate da alcuni come un ingresso a gamba tesa degli Stati Uniti nelle elezioni italiane. Io continuo il giro di orizzonti con i candidati a queste elezioni e oggi con me ai microfoni di America 24 ho Pierluigi Bersani. Buongiorno onorevole Bersani. Buongiorno, buongiorno a tutti. Condivide che ci sia stato un ingresso a gamba tesa nelle elezioni italiane da parte di Barack Obama? Non ci penso neanche, francamente. Queste sono polemiche che nascono in un contesto naturalmente di scontro elettorale in Italia, ma credo proprio che sia state di cose totalmente infondate. Lei in che rapporti è con l'America, onorevole Bersani? Io penso di essere in ottimi rapporti, fatto dal presupposto che nella tradizione di governo del centro-sinistra, perché non veniamo da niente, no? Veniamo da esperienze con i governi Prodi, con i governi Ciampi, con i governi D'Alema, di assoluta fedeltà, un criterio di amicizia con gli Stati Uniti, naturalmente col profilo dell'autonomia di ciascuno, col grande rispetto degli accordi internazionali. Certamente anche laddove ci sono state scelte che non sono state condivise, faccio riferimento anche all'intervento in Iraq, noi ci siamo presi le nostre responsabilità, ma mi pare che anche quello sia stato un oggetto di grande dibattito e decisioni anche diverse dentro l'opinione pubblica americana e l'amministrazione americana. Per il resto noi siamo assolutamente interessati a costruire, ribadire, migliorare il rapporto con gli Stati Uniti, anzi riteniamo che per quel che riguarda l'Europa la politica europea dovrebbe somigliare un po' di più in campo economico, sociale a quella degli Stati Uniti. Siamo assolutamente favorevoli a che fra Europa e Stati Uniti si creano meccanismi di libero scambio, si facciano operazioni che riescono a favorire la crescita di tutti. Quindi diciamo lei è più favorevole alla posizione americana che preme sulla crescita piuttosto che a quella tedesca che preme sul rigore? Certo, questo è l'atteggiamento di tutta la piattaforma dei progressisti europei che stanno dicendo manteniamo il rigore, manteniamo l'austerità, però attenzione che il rientro dal debito e dal deficit è un tema di medio periodo, adesso l'urgenza è cercare di dare qualche risposta alla questione del lavoro e della crescita, ecco. Dopodiché, per quel che riguarda l'esperienza del governo Monti, per noi quel tanto di immagine, di rigore, di serietà che il governo Monti, col nostro aiuto, perché noi l'abbiamo voluto, l'abbiamo sostenuto, è riuscito a dare nel mondo, per noi è un punto di non ritorno. Vogliamo aggiungere a questo un po' più di equità, un po' più di lavoro, ecco. E invece il suo rapporto sul piano personale con l'America? Ma è un rapporto di assoluta simpatia, di assoluta amicizia, di rispetto e di ammirazione per un paese che diciamo in 200 e più anni, 250 anni, 240 non ha mai avuto una smentita alla sua rivoluzione e quindi che è ancora in grado di essere, di apparire anche un paese giovane. Attualmente il modello sociale, economico e sociale degli Stati Uniti ha una sua particolarità e io resto naturalmente affezionato anche quel tanto di conquiste che l'Europa ha fatto, quindi mi sento profondamente europeo, anche se vedo naturalmente che le conquiste di civilizzazione europea devono essere adesso gestite con maggior personalità. L'Europa deve fare la sua parte nel mondo avendo un suo proprio profilo e non essendo un condominio di paesi un po' rissosi a cui ci ha portato la destra in tutto questo decennio. Che è un po' quello che ha detto il presidente Obama e che sembra dovrebbe succedere a partire da questo negoziato per la creazione di un'area di libero scambio, insomma uno sviluppo importante. Assolutamente, questo, io penso che questa operazione, questa proposta possa aiutare l'Europa a farsi Europa, a partire dall'Eurozona, perché quando hai una moneta comune devi darti degli obiettivi di integrazione. Io stesso e il mio partito abbiamo come slogan, come grande prospettiva, gli Stati Uniti d'Europa, e quindi noi siamo contrari, rifiutiamo quell'involuzione, quella regressione nazionalistica, territoriale, corporativa che la destra ha dato all'Europa, facendo dell'Europa, che dovrebbe essere un driver per il mondo, qualche volta addirittura un problema per il mondo. Ecco, lei poco fa ha parlato di sistema politico americano che regge da oltre 200 anni. Ecco, noi abbiamo obiettivamente un sistema elettorale e politico che mostra un po' il segno del tempo. Crede che questo modello americano di check and balances che regge da tanto tempo possa essere un punto di riferimento per una nostra riforma istituzionale? A mio avviso la nostra urgenza è quella di darci un sistema politico che viva su dei collettivi, su delle grandi alternative stabili, che possa andare a prospettiva, una visibilità per il futuro al di là delle vicende personali, e che certo riesca a costruire un sistema istituzionale coerente. Questo significa trovare un bilanciamento tra potere del Parlamento, potere dell'esecutivo, che probabilmente non deve copiare la ricetta americana, abbiamo un'altra tradizione, ma nel profondo il tema c'è, con un leggi elettorali che siano coerenti a questo schema. Noi abbiamo una legge elettorale che non è coerente a questo schema, che minaccia sempre degli elementi di stabilità che dobbiamo assolutamente ovviare. Quindi c'è un cantiere da aprire sul piano politico e istituzionale, certamente in Italia. Partito leggero o partito pesante? L'America ha i partiti leggeri. Ma è un partito, dobbiamo fare un partito di tipo nuovo, ci stiamo provando come PD, abbastanza pesante da essere presente in tutti i territori del paese, come conviene a un grande partito popolare, ma abbastanza leggero per ritenersi aperto, per conoscere i limiti della politica e quindi avere meccanismi di grande apertura alla società. Noi abbiamo introdotto questa novità delle primarie, che è stata una novità enorme nel nostro paese e che dà l'idea di un partito che capisce che c'è del buono anche fuori di lui e che quindi deve essere un'infrastruttura a servizio di un civismo più ampio. Credo che questa sia una soluzione che possa dire qualcosa anche alla tradizione dei grandi partiti europei, che hanno bisogno di svecchiarsi senza cadere nel populismo e nel personalismo. Ecco, investimenti diretti americani in Italia sono, direi, al minimo, siamo al 26esimo posto. È favorevole intanto attirarli, e cosa farebbe per attirarli? Ma io credo di sapere, avendo fatto un mestiere da ministro dell'industria, quali sono i problemi per gli investimenti esteri, che sono assolutamente graditi, che bisogna favorire. Effettivamente i problemi principali riguardano, diciamo, la farraginosità e la lentezza dei meccanismi giudiziari, cominciando dalla giustizia civile, e dalla scarsa leggibilità delle nostre pratiche amministrative, e naturalmente questa è una delle priorità. Incesto politica affari, se ne parla molto in questi giorni. In America ci sono delle lobby trasparenti e regolamentate. Lei sarebbe favorevole a creare un sistema di lobby trasparente in Italia che evita che ci siano manipolazioni sotto banco? Ma nell'ultima legislatura noi in realtà abbiamo presentato anche progetti di legge, proposte che danno riprese e che riguardano appunto l'accesso alle, diciamo, al Parlamento, alle decisioni del Parlamento in modo regolato degli interessi, quindi sono assolutamente per lavorare su questo. Naturalmente su questi temi c'è un radicamento culturale che probabilmente è diverso, ecco, magari non è la mia teoria, ma c'è qualcuno che sostiene che per esempio le profonde radici anche culturali e religiose di questi due universi, il nostro e quello anglosassone, sedimenta poi idee meno laiche, se posso dire così, nel rapporto tra decisioni politiche e interessi economici, e quindi rischia di lasciare sempre un'area di inespresso nel quale si possono così addensare anche pratiche non convenienti. Tutto quello che si può emergere in trasparenza è buono, ecco, tutto quello che rimane oscuro è del demonio, ecco, su questo non c'è dubbio, e quindi qualche normativa in quel senso andrà fatta sicuramente. È favorevole a privatizzare un po' tutte le grandi aziende italiane che oggi restano con forti percentuali in mano allo Stato? Ma insomma, adesso non facciamo di tutte le erbe un fascio. Noi siamo stati grandi privatizzatori come centro-sinistra. Il fatto che in alcune grandi imprese un azionista di riferimento che lavora a condizioni di mercato possa ancora essere il pubblico per un paese, per il nostro, non è da escludere. Dentro norme europee che garantiscono condizioni di mercato. Sto parlando attualmente di grandi holding che possono essere le Eni, Enel, le meccaniche e così via. Lei al Financial Times ha detto che era favorevole, se non sbaglio, a una privatizzazione totale di Eni e Enel, ma non di Finmeccanica. Ce lo conferma? No, non credo vero. Io privatizzazione totale di Eni e Enel, io non ho detto una cosa di questo genere. Io penso invece che sulle società operative, in meno in questa fase, si possono fare operazioni di accordi industriali e anche di privatizzazioni. Non metterei all'ordine del giorno in questo momento, anche per come vanno i mercati, la privatizzazione totale di queste holding. Lavorerei naturalmente sulle controllate, per l'amor di Dio. Abbiamo tante cose da fare per quel che riguarda altre imprese, che sono imprese ancora a controllo locale, e credo che ci sia assolutamente su quello da lavorare. Abbiamo società miste in giro per l'Italia che non hanno ragione d'essere, quindi abbiamo spazio certamente per un inserimento del privato. Dopodiché bisogna però garantire le grandi traiettorie industriali, quindi bisogna anche avere soluzioni private che garantiscono capitali sufficienti, prospettive sufficienti per garantire degli asset industriali, perché se no questo paese industrialmente è già molto impoverito e io non intendo che si impoverisca ancora di più. In sintesi, io non sono certo uno statalista, io sono pragmatico, ecco. Se mi si dimostra che una traiettoria industriale è garantita meglio da un privato, io sono pronto a discutere, ma questo voglio capire. Però. Bene, ringraziamo Pierluigi Bersani per questa chiacchierata e arriviamo alla canzone del giorno. Pierluigi Bersani, siamo in post San Valentino, ci dica una canzone d'amore, a chi la dedica e che cosa sceglie? A mia moglie Daniela, a Leonor Santunai, Elvis Presley. Do the chairs in your parlor bare? Do you gaze at your doorstep and picture me there? Is your heart filled with pain? Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!